ne patno sono arresi. Dai soldi, dai soldi, dai soldi. Dai soldi, dai soldi, dai soldi. L'unità è la loro forza e la strada è il loro credo. Contro i fasci la loro rabbia, sopra i muri il loro nome. Dai soldi, dai soldi, dai soldi. Dai soldi, dai soldi, dai soldi. Dai soldi, dai soldi fiorentini, Cinefax sono arrivati, dai soldi fiorentini, Cinefax non sono arresi, dai soldi, dai soldi, dai soldi. Un saluto a tutti e tutte, nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat che dà voce a chi nei quartieri e nelle zone periferiche di Firenze ci vive e ci lavora. Ricordiamo Passaggio a Nord-Ovest in onda su Radio Wombat tutti i lunedì alle 14.30 e in replica dal martedì al venerdì sempre alle 14.30. Potete ascoltare anche tramite podcast andando sul sito di Radio Wombat, che è wombat.noblogs.org. Il primo menu a sinistra è un menu a tendina in cui c'è scritto podcast appunto, e scorrendo arrivate fino a Passaggio a Nord-Ovest, e chiaramente ci sono i podcast comunque di tutte le trasmissioni di Radio Wombat. E Passaggio a Nord-Ovest in trasferta oggi, siamo nella sede dell'AMPI di Campi Bisenzio, siamo il responsabile, diciamo, o comunque l'animatore principale, ecco, delle iniziative dell'AMPI di Campi Bisenzio, e siamo circondati da belle foto. 4 agosto 44, Porta Romana, i partigiani della Brigata Senigallia entrano a Firenze. Foto di cittadini, di partigiani festanti, foto dei momenti della liberazione, Milano, arrivano i partigiani e via dicendo. E ci sono anche alcune bandiere, diverse bandiere. E gli chiediamo appunto perché in una scritto Brigata Lupi Neri. Giusto, sì, per cominciare un po' a fare questa storia, diciamo, di quella è stata non solo l'AMPI a Campi Bisenzio, ma partendo da molto prima, da quella è stata la resistenza, diciamo, a Campi Bisenzio e nella zona nord-ovest, diciamo, della città, quindi Campi, Sesto, Valibona. Quindi Fulvio, perché Brigata Lupi Neri e perché 22esima Brigata d'Assalto Garibaldini Lanciotto? Buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, questa è una sede storica la nostra qui a Campi Bisenzio, è stata realizzata fin nel 1945, una delle sedi più vecchie di Firenze, insieme a quella dell'Oltrarno, dedicata appunto a Potente, e la nostra sezione è dedicata al comandante partigiano caduto in battaglia, una delle prime battaglie appunto nella Toscana di resistenza, e a Lanciotto Ballerini, medaglia d'oro e valor militare. Cosa vuol dire Lupi Neri, la brigata, la formazione garibaldina Lupi Neri? Ecco, appunto, prendendo spunto da queste prime formazioni che si andarono a creare subito dopo l'8 settembre con l'avvenuta a Firenze l'11 settembre dei tedeschi, i partiti clandestini dediti alla resistenza antifascista, quindi il Partito Comunista e il Partito d'Azione, si dettero subito da fare per avvertire i loro simpatizzanti, i loro appunto iscritti, dandogli degli incarichi di organizzazione. E qui a Campi vennero i responsabili appunto del Partito Comunista, Gino Tagliaferri e il Rossi Silvano, che dettero appunto l'input ai compagni in una serie di riunioni per la formazione di un gruppo da andare su in montagna per appunto imbarcarsi in una grande avventura contro le tirannidi, la tirannide nazifascista, che chiaramente dopo l'11 settembre, con l'arrivo dei tedeschi sulle nostre aree, sul nostro territorio, diventava un territorio occupato da una belva ancora più feroce di quella che erano i fascisti, anche se il ventennio fascista aveva picchiato duro e aveva tolto qualunque possibilità di dissentire. E nelle nostre zone si forma un gruppo di 12 cittadini, tutti della zona? Sì, tutti campigiani, in un primo momento tutti campigiani, e appunto si uniscono al Lanciotto e vanno su a Monte Morello, diciamo sulla zona che guarda il Becciolino, sopra appunto lì alla trattoria di Morello. E lì la formazione di Lanciotto trova già insieme a loro il gruppo di Sesto, comandato dai Bruschi, e il gruppo di Rifredi, comandato dal Bini. Tutte e tre le formazioni erano formazioni appunto garibaldine, e lì appunto fin dal settembre, dal 15 settembre, queste formazioni sul territorio agiscono, prendono contatti, raccolgono diciamo in questo momento, in quella fase di periodo, raccolgono i tanti militari e prigionieri di diverse nazionalità. Arrivano infatti alla formazione di Lanciotto degli inglesi, arrivano degli jugoslavi, arriva anche dei russi. E quindi si può dire che questa formazione era una formazione europea, con un unico obiettivo, quello della fratellanza, della cooperazione, per abbattere la barbarie nazifascista, per combatterla. Chiaramente l'esercito partigiano non era un organizzato come un esercito regolare, era un esercito approssimativo, però c'era tanta idea, tanto valore e un immenso sacrificio di darsi per migliorare, perché ciò che avevano vissuto era veramente qualcosa di tragico e di bestiale, nel senso, se uno pensa a quello che è stato il tribunale speciale che ha tolto a tutti gli italiani la possibilità di dissentire, anche una parola detta contro il regime, contro alcuni fascisti, portava all'incarcerazione oppure alla perdita del lavoro. Ancora prima delle leggi razziali, i primi discriminati sono stati gli oppositori politici. Non ce lo dimentichiamo mai, perché i regimi nascono su questo. E la formazione dei Lupi Neri da Monte Morello, a un certo momento viene deciso, perché siccome i tre gruppi partigiani avevano cominciato ad avere tanti elementi da dover in qualche modo controllare e sfamare, perché poi certamente la montagna non è il luogo migliore per trovare approvvigionamenti. E Monte Morello in quel momento, erano verso il novembre, dicembre del 43, e cominciavano a esserci 150-200 uomini adulti, e quindi sì, le donne, i paesani collaboravano portando un cestino da mangiare, qualche uova, la frutta, qualche animale, qualche pezzo di carne, e però più della sostanza veniva dai contadini, che chiaramente dividevano con i partigiani quel po' che avevano. E su questo anche Lanciotto molte volte si è ritrovato un attimino in difficoltà, perché in qualche modo doveva dargli qualche cosa, e quindi anche ripagarli di questa loro bontà, di questo loro altruismo. E molte volte tornava a campi, anche se i fascisti lo vedevano, però incuteva terrore. Ecco, si distingueva Lanciotto Ballerini chiaramente in questa composizione, in questa banda, diciamo, come, o meglio, quello diciamo che almeno a campo conosciamo di più. Che profilo, ecco, ci puoi dare? Erano un po' atipici, ecco, diciamo, da un punto di vista dell'inquadramento all'interno, diciamo, dell'organizzazione generale, ecco, delle brigate partigiane. Cioè, teniamo conto che questi sono i primi esperimenti dopo appunto le brigate garibaldine di Spagna, dopo le brigate internazionali, questi sono i primi esperimenti di portare in Italia quella che è stata l'esperienza spagnola. Qui a campo hanno collaborato il Soccorso Rosso, dal padre di Lanciotto e padre di Sparto Monti, Cornelio, e quindi Ferdinando Puzzoli. Che formazioni erano? Sì, Lanciotto Ballerini è un comandante con esperienza militare, uno che conosceva la guerriglia, ha partecipato chiaramente alla guerra, all'occupazione dell'Albania, e quindi di conseguenza il fronte greco-jugoslavo, E infatti ci sono delle testimonianze su di lui che già appunto anche nel fronte jugoslavo si era già avvicinato ai partigiani jugoslavi titini, avvertendo i villaggi che l'artiglieria italiana da lì a poco li avrebbe bombardati, li avrebbe colpiti, quindi uscendo dal campo militare a rischio e pericolo di essere fucilato, lui andava ad avvertire le comunità di quei territori dicendo allontanatevi perché domani i nostri cannoni saranno puntati sulle vostre case. E una testimonianza di un compagno che era con lui ci ha raccontato qui a Lampi, ha detto ma io gli facevo a Lanciotto, ma chi te lo fa fare Lanciotto di rischiare la tua vita per salvare degli sconosciuti? Ma dice ma se questo accadesse a casa nostra e tua moglie e i nostri figlioli fossero in pericolo di un esercito, ma ben venga qualcuno che gli avverta e gli faccia portare in salvo. Ecco, il legame, il rapporto, diciamo, tra la formazione partigiana, pur essendo fuori dal paese, ecco, e il paese comunque rimaneva stabile, c'era una comunicazione continua. Sì, i paesi intorno, diciamo, a Monte Morello, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, erano delle, anche la zona di Rifredi, erano delle zone roccaforti, diciamo, erano la sussistenza della montagna, dei partigiani, da Campi, da Sesto, da Rifredi, arrivavano tramite le vie dei sentieri della montagna gli aiuti, arrivavano i rifornimenti di armi, abbiamo diverse testimonianze di alcune nostre staffette, di Enzo Puzzo, di figlio di Ferdinando, che si arrivò su un carro bestiame, nascosti tra la paglia, 30.000 colpi di mitragliatrice, che Lanciotto aveva, una mitragliatrice che Lanciotto aveva portato via ai fascisti durante un attacco allo Smannoro, però i colpi non potettero portarli via perché erano troppo pesanti e li lasciarono nascosti in una fossetta. E ci pensò poi in un secondo momento Enzo. Sì, c'era appunto una collaborazione, un contatto intenso tra i partigiani e le comunità locali. Tanto che anche sulla montagna c'era molta solidarietà con i contadini e i partigiani, nonostante il grosso rischio delle rappresaglie, perché chiaramente io ospitavo i banditi all'epoca, correva il rischio di vedere decimata la propria famiglia. E Lanciotto a un certo momento lì a Monte Morello, siccome erano in tanti, non poterono restare più lì. E l'organizzazione, chiaramente, quella del Partito Comunista e quella del Partito d'Azione, decisero in qualche modo di far confluire queste formazioni in zone diverse. Quella, diciamo, le Brigate Garibaldine a un primo momento decisero di mandare i propri gruppi partigiani, le proprie formazioni, che erano varie, già nel dicembre del 1943, nella zona del Falterona, per poi farle incontrare con i partigiani dell'Emilia Romagna. Questo non fu possibile perché la zona del Falterona era circondata dai tedeschi che di già stavano apprestando la linea gotica e quindi tutta la zona del Falterona era soggetto a dei rastrellamenti. Infatti le formazioni che andarono verso il Falterona, proprio nella bocca del nemico, avevano rastrellamenti sotto la montagna e anche di lato, e quindi l'unico loro rifugio era quello di non entrare in contatto, anche perché i tedeschi erano molto ben organizzati, la divisione Göring, insomma, era una divisione importante dell'esercito nazista. E infatti in quelle occasioni dove ci sono stati degli scontri a fuoco c'è stato un momento di dispersione in quei primi attimi. Lanciotto ebbe l'ordine di raggiungere prima i compagni dei faggi di Javello a Prato, dove si stava realizzando anche lì una formazione partigiana. C'era due o tre gruppi di partigiani che in qualche modo erano entrati un po' in conflitto tra di sé. Però, insomma, aveva avuto l'ordine di Lanciotto di prendere contatti con loro per cercare un po' di riassorbire un po' le tensioni che si erano create in questi gruppi. E Lanciotto si sposta dal Falterona, da Montemorello, scusate, si sposta sotto il periodo natalizio. Il 25 torna a Campis, alla casa di Serafino Corti, qui vicino a Tomerello. Incontra la moglie con la bambina piccola che aveva 2 anni e mezzo circa, 3 anni, e insieme a lui ci sono in quel momento Buttallaria, c'è Marcello, c'è Guglielmo Tesi, c'è Ferdinando, che anche lui le era tornato per portare i saluti, e c'è Querci, insomma un gruppettino di compagni, c'è Bernardi, Corrado, senz'altro insieme a Renzo. E cercano in qualche modo di tranquillizzare le famiglie dicendo sì, ci spostiamo, però non vi preoccupate, rimaniamo un po' nei dintorni, sulla zona del Pratese, e poi dopo cerchiamo di raggiungere le montagne del Pistoiese, dove si doveva incontrare con la formazione del Duceschi, del Partito d'Azione. Così era stato concordato nei piani organizzativi, appunto, degli ordini che avevano ricevuto. Siamo nel gennaio del 44, no? Sì, siamo nel dicembre 43, primi di gennaio di 44, quando Lanciotto lascia Montemorello e arriva a Valibona. Una volta arrivato a Valibona prende un alloggio in un fienile, il fienile Lassucci, lì a casa di Valibona, che gli ospita ben volentieri, e lì loro si intrattengono 4 giorni. 4 giorni in quella montagna, in quella collina, perché non è proprio una montagna, si fecero notare. In quei 4 giorni si fecero notare, tanto che un russo, Andrei Vladimiro, un tenente dell'Armata Rossa, in pattugliamento fermò un camion della TOT che portava appunto gli uomini a lavorare nelle zone più diverse, che appunto interessava all'esercito tedesco. Lui lo bloccò e fece scendere gli uomini civili e li liberò. I tedeschi e i fascisti, sotto la minaccia delle armi, vennero disarmati, però una macchina che era in coda al gruppo fece una sterzata e accelerò per uscire, per andare via dal blocco stradale, e ce la fecero. I partigiani gli spararono, però riuscirono a ferire solo malauguratamente un interprete che c'era lì all'interno di questa vettura, però tutto il resto di questa macchina riuscì ad arrivare nella zona del Bolognese, perché loro l'atto venne fatto verso il Cornocchio, nella zona della guardia verso Barberino. E questi dettero l'allarme, insomma ci fu dal Ministero degli Interni, della Difesa, e una serie di segnalazioni in cui appunto c'era un gruppo di partigiani comandati da un sovietico con un berretto, con la stella rossa, che agivano su quel territorio. E chiaramente questo avvenne nei primi giorni di gennaio, se non era il 30, il 31 di dicembre, ma i primi di gennaio, il primo proprio. Preso le informazioni sulla zona, mandando chiaramente alcuni a controllare l'area, molte volte bastava mandare 2 o 3 passeggiatori tranquilli sulla collina a prendere un po' di informazioni, e riuscivano a capire dove i partigiani li erano alloggiati a dormire. Si dice che anche un fattore della fattoria di San Cadenzio fu lui ad accompagnarli, e infatti è la cosa più plausibile, perché Stuaud, l'inglese, si era fermato in questa fattoria perché la proprietà era inglese, e quindi gli inglesi avevano l'obbligo di dare a ogni prigioniero che era fuggito dal campo di prigionia italiano soccorso e aiuto. Però non fece calcoli che il grande fattore, il grande proprietario inglese, aveva un fattore fascista come l'era all'epoca, e lui per l'appunto incontrò il fattore, e il fattore capì che questo, insomma, in qualche modo aveva un rifugio, era nascosto da qualche parte, e quindi quando venne dato l'allerta una formazione sulla zona della Calvana, diciamo, su questi promontori qui, furono facilmente rintracciabili. Una formazione di Lanciotto Ballerini in quel periodo d'inverno, in cui c'era freddo, c'era vento, ed era raccolta all'interno del fienile, doveva cercare contatti con i compagni di Faggi di Iavello, ma i compagni di Faggi di Iavello non si facevano trovare, non era facile anche trovarsi in montagna, non è come oggi, abbiamo cellulari, abbiamo... E quindi era un'attesa, aspettavano un segnale, aspettavano delle informazioni per potersi muovere a colpo sicuro, anche smuoversi in quel momento. Erano 17 uomini, 19, poi altri 23 si erano spostati per portare un po' le armi e la polvere da sparo che avevano raccolto. Sì, c'era la mitragliatrice, insomma, poi avevano diverse bombe a mano, quindi il gruppo in quel momento era in attesa che dovessero ritornare alcuni compagni partigiani che erano appunto andati su ordine del comitato di liberazione a portare questo titolo al comando, e poi dovevano ritornare e ricongiungersi con Lanciotto. Solo gli arrivò a un certo momento, all'ultimo momento, gli dissero che i compagni rimanevano trattenuti lì, che non sarebbero ritornati a causa del tempo e a causa anche del controllo che c'era sul territorio da parte dei nazifascisti. Quindi Lanciotto sapeva che doveva andare via alla svelta, se non partiva i tre, partiva i quattro, era in procinto di andare via. Noi abbiamo appunto le testimonianze che Lanciotto, la sera dell'ultimo dell'anno, ecco contadini lì della zona, e che i bambini, che oggi sono uomini adulti, si ricordano come lui si divertiva a farli ridere, facendo le buffonate, no? Camminando con le mani, alzandosi su, facendo un po' i giochi d'acrobazia. Lanciotto era una persona straordinaria, aveva un fisico stupendo, stava campione di pugilato, ha fatto la boss, chiaramente come... No, era stato campione di boss? Sì, come primi pugni, era un dilettante, non era un professionista, però Ferdinando Fusoli vide questa sua forza, no? Nel senso, sì, è un bel peso medio, sì. Lanciotto era uno sportivo di natura, proprio per stazza fisica e per potenzialità, pensando appunto il suo lavoro era quello della macellazione, delle pecore. Palestra popolare. Sì, proprio la palestra popolare, perché era stata proprio nella casa di Ferdinando Puzzoli, la prima palestra venne allestita lì. E quindi, insomma, una persona veramente con delle doti atletiche. Infatti la battaglia si risolve anche grazie a lui. Dopo appunto questi fatti sul territorio, i repubblichini di Prato, insieme agli amici del corpo volontario della milizia di Muti, i carabinieri e le amici nere della zona, decidono di creare un accerchiamento dopo aver preso le informazioni di dove erano i partigiani situati. E nel giro di 48 ore è messo in campo una spedizione punitiva. E questa spedizione punitiva, i danesi, che era il comandante della Guardia Repubblicina di Prato, portò con sé circa 150 soldati. Poi venne affiancato dalle camicie nere di Prato, di Vaiano, dei carabinieri, sempre di Prato e di Vaiano, e da Firenze partirono il corpo volontario della Muti, che anche loro erano una settantina, un'ottantina di elementi, coadiuvati anche loro dalle amicianiere di Firenze, dai carabinieri di Firenze e di Alenzano, che poi appunto gli portarono, facendogli salire appunto da Carraia su a Vallebona. E la mattina del 3 gennaio la Guardia Repubblicina, insieme alle amici nere, a questo corpo di volontari della Muti, sono intorno al fienile, dove riposavano in quel momento i 17 partigiani comandati dal Lanciotto, che avevano dato il loro nome e avevano fatto la loro bandiera proprio appunto come questa riportata da noi oggi in versione moderna, diciamo, perché chiaramente la bandiera da combattimento del gruppo d'assalto Garibaldi, i Lupi Neri, con la battaglia non è stata più ritrovata. Un soldato russo, Mirko, che era appunto nella formazione di Lanciotto, durante la notte verso le 4:30 si sveglia e ha un bisogno, perché fuori, diciamo, le sentinelle non c'erano, perché era un tempo tremendo, vento, freddo, e alcuni dicono c'era la neve in quelle quote, può darsi senz'altro, però non è che avesse nebbiato molto, però insomma è una temperatura rigida, molto rigida, e Lanciotto preferì quella nottata farli stare dentro il fienile, è caldo, questi ragazzi, che poi molti erano ragazzi giovani in quel momento di dicembre, ragazzi di 19, 20, 21 anni, 22, ragazzi del 24, del 25, del 23, del 22, quindi uno pensa nel 43, nel 44, meno il massimo aveva 22 anni, ecco, nel senso. E Mirko si sveglia per andare fuori a pisciare, e mentre lì fuori a pisciare sente i rumori, perché la Calvana era una collina di ciotoli, di sassi, e questi camminando e facevano rumore. Mirko si sveglia, sente appunto, mette le lì, sente appunto, guarda, e avverte Lanciotto, dice: oh Lanciotto, qui siamo circondati, c'è gente intorno, sono ovunque. Lanciotto si sveglia, avverte i compagni, dice: ragazzi, prepariamoci. Chiaramente c'è stato un atto dalle testimonianze del commissario politico, non si sa bene come si è svolta la battaglia, e quindi i ragazzi li erano circondati. Quelli che venivano da Calenzano gli avevano preso tutta la parte sotto, e quelli da Prato tutta la parte dell'alta montagna. A un certo punto, mentre loro sono lì a prepararsi gli armamenti, si sente una voce fuori: arrendetevi, siete circondati. E questi pensavano appunto che questo gruppo si arrendesse, invece Lanciotto, come dette l'ordine di sparare, e questi si erano così avvicinati al fienile che cominciarono a cascare come pene marce, cominciarono a sparare con i moschetti, con i fucili mitagliatore, il ventrone, ci sa, un bipede della Breda. Lanciotto Ballerini cominciò a lanciare le prime bombe a mano, facendo credere davvero un mortaio, e rimasero per terra subito, in quei primi 5 minuti, 4-5 morti e una decina di feriti. E le pubblini scapparono risalendo la montagna. I contadini ci raccontano che gli sequestravano i carri per portare i feriti a Prato. Dicono: ma no, ci ammazzano tutti, ci raccontava un contadino nella sua testimonianza, da quanto era l'ardore della battaglia scaturita dai partigiani. Ecco, quindi una cosa impensabile che un gruppo di 17 giovani ragazzi male armati potesse resistere a una formazione di 200-250 persone che li aveva anche accercate e che l'era dotata di mezzi bellici importanti, no? E quindi infatti avevano piazzato 4 mitagliatrici. Lanciotto, con la sua forza, riesce a lanciare le bombe a mano a distanza di 80-100 metri e riesce a far saltare subito 2 nidi di mitagliatrici, liberando sulla parte destra uno spazio dove chiaramente, non essendoci più le mitagliatrici, si poteva cercare una via di fuga. A un certo momento, mentre si spira, la battaglia dura 2 ore, 2 ore e mezzo, alcuni dicono 3, si sentiva colpi fino a 3 ore, quindi fino alle prime luci della mattina, fino alle 9, 9 e mezzo. La battaglia ebbe continuo. Lanciotto, con questa tattica di guerra, scardinò la porta di dietro del fienile, fece uscire i compagni da dietro per allargare la bocca di fuoco, nel senso, per non essere solo nell'entrata del fienile a sparare, ma essere suddivisi allargando il campo di fuoco, appunto per poter costringere anche gli avversari un attimino a allargarsi. E questa cosa funzionò bene: da un pozzetto, da un secondo fienile, altri compagni stavano in qualche modo fronteggiando i repubblichini, e Lanciotto si spinse in avanti, dove aveva lanciato le prime bombe, si era creato un vuoto e delle buche in cui lui poteva lì in qualche modo stare basso e lanciare nuovamente bomba a mano, facendo credere di avere un mortaio per far allontanare oppure per distruggere un'altra due mitragliatrici. Una riuscì a distruggerla. Al momento stava per localizzare un'altra mitragliatrice, la seconda volta si rialzò il capo, venne colpito in piena fronte e morì sul colpo. E in quel momento lì accanto a lui c'era Loreno Barinci, un altro partigiano, sempre di Sesto, che racconta appunto la sua testimonianza quando cadde Lanciotto Ballerini. E anche lui venne ferito poi dalla raffia della mitraglia che gli sguanciò la guancia, ebbe un paio di colpi sulla testa che gli perforarono le guance. E più venne ferito con un colpo all'addome. Però rimase lì per terra, creduto morto. E una volta morto il comandante partigiano e compagni si resero conto che insomma era morto Lanciotto e molti erano molto tristi, molto, molto disperati. Dicevano, è morto Lanciotto, Ferdinando Pozzoli non voleva venire via, Guglielmo Tesi uguale, no, si porta via con noi. Cioè, però era impossibile perché la forza nemica era enorme. Però grazie al sacrificio di Lanciotto, grazie all'impegno di tutti i partigiani, di quei 17 ragazzi, riuscirono a crearsi un varco e questo varco appunto permise a 9 di loro di sfuggire dall'accerchiamento. E lì nella battaglia morì in battaglia Lanciotto Ballerini, il sardo Luigi Giuseppe Ventroni, che era stato ferito mentre sparava con la mitragliatrice. Quando i tedeschi, i fascisti si avvicinarono al fienile, si avvicinarono col lanciafiamme, lo videro muovere e loro usarono il lanciafiamme per finirlo. Il russo Andrei Vladimiro, che chiaramente il suo nome era Vladimiro, era un tenente dell'Armata Rossa, un esperto, un genio ferroviario, diciamo, era un esperto nell'attentato ai treni, no? Quindi si era fatto male appunto cercando di bloccare un treno sulla Faentina in un'azione con il gruppo partigiano e gli cascò 3 traversine di legno su un piede e aveva preso una bella botta di schiacciamento e quindi non potette correre, uscire insieme agli altri e quindi lo fecero prigionieri i fascisti. Una volta visero che l'era il russo, lo legarono a una vecchia quercia secca con della corda e gli fecero: te tu sei russo, tu sei comunista. E lui li guardava, così almeno raccontano, dice: certo. E gli spararono un colpo di pistola alla testa e morì sul colpo. E i fascisti catturarono 5 partigiani, catturarono Tommaso Bertovic, un jugoslavo, cui gli spaccarono il capo, Mario Ori, un compagno di Firenze, un anziano di Firenze, compagno del segretario del Partito Comunista Gino Tagliaferri e di Mario Rossi. Poi catturarono Bruno Guzzon, un ragazzo di 18 anni che appunto dal Piemonte e dal Veneto, erano due giovani, uno Ruzzante e l'altro Guzzon, erano venuti perché avevano sentito che si combattevano i nazi fascisti in Toscana e quindi erano venuti per unirsi ai partigiani, ragazzi di 17-18 anni. Ma poi loro riescono a sganciarsi. Allora, Ruzzante riesce a sganciarsi insieme a Ferdinando e a Guglielmo Tesi e agli altri, mentre Guzzon viene fatto prigioniero. Insieme a Guzzon viene preso anche il Conti, anche lui viene preso dai carabinieri e consegnato ai fascisti. E in più viene preso anche Loreno Barinci, che era lì per terra ferito, e che però appunto si sono resi conto, l'avevano dato per morto, però il giorno dopo venne, venne, venne, venne preso e caricato appunto e portato all'ospedale a Prato e poi condotto alle carceri di Firenze. Ecco Fulvio, anche funerali di Lanciotto, diciamo, hanno dato un po' la testimonianza, ecco, del radicamento paese, insomma, no? No, se si pensa che questa battaglia è la prima battaglia che chiaramente l'esercito partigiano conduce contro un avversario che non era mai stato sconfitto da nessuno. Cioè era impossibile combattere contro i fascisti, contro l'esercito fascista. Poi specialmente insieme all'esercito tedesco era un'impresa da pazzi. Invece no, questi ragazzi dimostrarono che si poteva combattere anche se in pochi, anche con poche armi, male armati, ma con la dignità, con la ragione, con la forza degli ideali, perché gli ideali hanno dato un grosso contributo al valore espresso in quel momento, perché sapevano che sì, a me mi ammazzi, ma dietro di me ne nasce 100, ne nasce 1000, e infatti così è avvenuto. I funerali di Lanciotto furono una cosa straordinaria, perché dopo 5 giorni i fascisti tedeschi permisero ai familiari di andare a recuperare il corpo, e poi una volta recuperato il corpo, una volta portato in paese col camion di Fiorino, volevano impedire il rito funebre e chiaramente il corteo funebre, c'era questo divieto, però la gente, questi sono territori anarchici, sono dissovversivi, sono territori di persone che chiaramente il divieto è come una festa, nel senso sì, tu me lo divieti, va bene, si guarderà. E le testimonianze che ci sono, è stato un momento di raccoglimento in cui ha partecipato tutta la comunità. Una volta che il corpo di Lanciotto viene portato alla sua casa, appunto in piazza Ballerini, via San Giorgio all'epoca, anzi via San Giorgio, di là del ponte, perché in quel momento sì, la sua moglie era lì in quella casa lì insieme a dei familiari. Dopo 5 giorni viene permesso ai familiari di Lanciotto di andare a recuperare il corpo del comandante lì appunto a casa di Palibona, e parte una serie di compagni, Fiorino con i fratelli di Lanciotto, Alberto, e vanno appunto lì a Palibona, recuperano il corpo e lo portano in paese. Ad attenderlo in paese c'è una folla. I tedeschi e i fascisti del luogo hanno dato un ordine che nessun assembramento deve essere consentito, che il parroco non può fare la liturgia funebre e nemmeno il corteo fino al cimitero. E avevano piazzato un cordone a protezione appunto per impedire che la gente affluisse a rendere omaggio a questo loro concittadino. Nonostante questo divieto e questo cordone, molti cittadini portarono il loro saluto al comandante partigiano a Lanciotto Ballerini, proprio mentre era in casa lì, nella zona lì di Santa Maria, qui a Campi. I compagni di Sesto, i falegnami, fecero appunto una cassa proprio per il comandante, e avvenne appunto il trasporto verso il cimitero. Al cimitero, ad attendere Lanciotto, come dice Carolina, la moglie di Lanciotto Ballerini, in un'intervista, c'era il mondo, c'era decine di partigiani schierati a picchetto, c'era corone di fiori, c'era la folla dei concittadini che si era stinta intorno a questo nostro eroe. E nonostante appunto le minacce, le aggressioni che potevano fare i fascisti, Don Conti, il parroco di San Lorenzo, fece la liturgia funebre. E sì, oggi sembra una cosa sì, normale, ma affrontare all'epoca quello che era un'occupazione militare da parte di criminali, vuol dire che la popolazione, la comunità, per questo suo figliolo, si sarebbe sacrificata tutta. E infatti, diciamo, l'esempio di Lanciotto e dei combattenti di Valibona è stato un esempio per tutta l'Italia intera, che poi chiaramente questa battaglia con questo ruolo di protagonismo vissuta intensamente, combattuta anche se in maniera dispari, inferiori di numeri, inferiori di armamento, ma con una grandissima dignità, ha portato l'Italia a liberarsi. Sì, grazie a figure come il comandante Lanciotto Ballini, come Potente, come tanti altri uomini e donne che si sono prodigati nella resistenza e contro il fascismo e contro il nazismo. Ecco, la storia di Lanciotto, alcuni scrittori inglesi, riferendosi alle testimonianze di Stuart Wood, Carlino, che appunto era l'inglese e era nella formazione di Lanciotto, e che poi entrò a far parte del comitato di liberazione senese alla liberazione di Siena, lui, le sue memorie e storie ricordano appunto questo primo momento di resistenza e di esperienza come l'apice della riscossa italiana verso la tirannide, e prendendo appunto esempio i combattenti con cui erano stati a fianco il Lanciotto Ballerini, dice che l'Italia migliore è questa che ho conosciuto in quei giorni lì a Montemorello. Ecco, ce la stai raccontando senza guardare appunti, senza guardare date, via dicendo, anche perché probabilmente, te lo chiedo, una storia orale, ecco, una storia orale popolare che da un lato ha inciso profondamente, diciamo, nella cultura sociale, politica, antifascista campigiana, e dall'altro e nello stesso tempo, ecco, si è tramandata proprio perché Lanciotto e quelli sono e molti che facevano, anzi tutti quelli che facevano parte, diciamo, della brigata, hanno combattuto a Valibona, erano, diciamo, figure popolari, ecco, venivano dalla strada, ecco, si direbbe oggi, e quindi è radicata nella memoria collettiva di un paese, ecco questa cosa. Sì, no, senz'altro tutti i protagonisti, sia di Campi che di Sesto, erano tutte persone conosciutissime, nel senso Vandolo Valoriani, che al momento della battaglia canta Bandiera Rossa, qualche uno dice ma questa testimonianza, no, è vero, io ho raccolto testimonianze anche su Vandolo Valoriani, e era una persona decisa, una persona piena di valore, di ideali, tanto che dopo, alla fine della guerra, si è trovato un pochettino fuori posto, quando hanno visto che insomma bisognava deponere le armi e che il mondo sperato, il mondo migliore non sarebbe arrivato. Però insomma, tutte persone, chiaramente, come Buttallaria, come Guglielmo Tesi, come Renzo, e come Alberto, come Corrado, e come Ferdinando, come Silvano, come Amedeo, insomma, come Enzo, insomma, decine. Noi a Campi abbiamo avuto quasi 100 sappisti, la nostra sezione, già i primi riconoscimenti del 1948 elenca 98 partigiani riconosciuti, quindi una sezione all'epoca importante, ecco, per quello che era l'attività dell'antifascismo locale. Tanto che quel seminato Campi se l'è potuto godere fino a che ancora questa storia, questa etica, questa moralità, questa visione del darsi per gli altri, di essere al servizio della comunità, è stata appunto ramificata in quei valori, in quegli ideali che chiaramente portarono i gruppi, le formazioni partigiane su montagna e in città. Insieme ai gappisti, qui abbiamo il Lupo, Ernesto Magherini faceva parte delle gappe, anche lui un compagno audace, un coraggioso. Se si pensa a un altro campione, un altro sestese che chiaramente è stato un compagno importante, che anche nella resistenza dopo la battaglia di Valibona ha continuato, è Ciro Pelliccia tornò, arrivò a Montemorello camminando dalla Francia a piedi, arrivò dopo un mese in Italia camminando, e era un esperto dei boschi, dei sentieri, conosceva, passava da un posto, riconosceva subito qual era la strada per il ritorno. Lui insieme a un altro gruppo di patrioti entrò a Careggi per liberare un compagno ferito, il Bruschi, che era stato ferito dai tedeschi, e se fosse stato riconosciuto come appunto essendo stato già precedentemente perseguitato dal tribunale speciale, l'avrebbero torturato come fanciullacci per estorgergli informazioni. Però prontamente Ciro insieme ai gappisti della zona di Rifredi e di Sesto riuscirono a intervenire, se lo montarono sul gruppone e se lo portarono via dall'ospedale. Quindi persone che di una razza nemmeno immaginabile, ecco, nel senso che uno oggi si pensa, oggi non sappiamo nemmeno cosa vuol dire vivere sotto la tensione, la tirannia della guerra, e per fortuna. Ecco, ci dicevi, diciamo, ci sono due luoghi nella memoria, nella memoria storia, diciamo, dei campigiani, se stessi, della piana, diciamo. Uno è Valibona, appunto, dove si è svolta la battaglia, e dove puntualmente ogni 25 aprile, ma anche ogni 3 gennaio, ci andiamo, non solo celebrazione, ecco, cioè il significato non è una retorica, ecco. No, chiaro, non solo celebrazioni. Il 3 gennaio è un momento di ricordo della battaglia, è celebrativo, anche perché il tempo lassù non permette di fare altro. Ultimamente i ragazzi di Prato, dell'Ampi Giovani, di Sentieri Partigiani, arditi camminatori, sono venuti in trekking partendo appunto da Prato e hanno raggiunto Valibona in camminata, e quindi oggi trovano lì il fienile, che all'epoca era il fienile Fortilizio, un ecomuseo dove c'è esposta tutte le informazioni della battaglia che in questi anni come Ampi Vicenza abbiamo raccolto e messo lì a disposizione di chi appunto come le trova qui presso la nostra sede, ma le può trovare anche nel luogo appunto della resistenza per eccellenza, lì a Valibona, dove si è svolta appunto la battaglia. C'è appunto questo museo che permette, tramite dei pannelli che raffigurano i personaggi, i protagonisti della battaglia, e quello che sono le testimonianze di che cosa è successo in quel 3 gennaio 1944 in quel luogo lì. Il 25 aprile negli anni abbiamo sempre cercato di portare su degli avvenimenti. Io ormai sono iscritto all'Ampi da tanti anni, dal 1985 sono iscritto all'Ampi, quindi se uno pensa bene sono quasi 30. Nel 60° della battaglia noi appunto facemmo la proposta di realizzare lì sul luogo appunto questo ecomuseo, fare il luogo della memoria per eccellenza della resistenza locale. E l'altro luogo, insomma, me lo dicevi a inizio dell'intervista, questa in cui siamo ora è una sede storica dell'Ampia, che c'era prima? Ad esempio qui in origine c'era Palazzo Pretorio, detto anche Palazzo del Podestà. Sì, qui si è rimasto fino agli anni 30 il Palazzo del Podestà. E qui nel momento del fronte dell'agosto, fine luglio ed agosto del 44, qui accanto alla Pieve misero in atto un ospedale, perché era impossibile raggiungere Firenze ed era impossibile raggiungere Prato. I tedeschi avevano minato i ponti, alcuni erano impraticabili e il passaggio era impedito. Gli alleati di là dall'Arno sparavano colpi d'artiglieria nell'abitato e noi abbiamo avuto 160 morti civili a causa dei colpi d'artiglieria e dei bombardamenti alleati. E chiaramente tanta feriti, tanta disgrazia nelle famiglie, e non avendo la possibilità di portarli negli ospedali, venivano in qualche modo qui, grazie all'opera del dottor Lazzarini, grazie appunto all'opera anche di altri dottori, il dottor Conti, il dottor Mariani, che appunto della zona aiutavano con farmaci e con magari anche espedienti naturali in qualche modo a disinfettare le ferite, facendo degli impacchi, riuscendo con le band a trovare le band, quindi ci fu una collaborazione corale di tutto il paese per allestire qui un ospedaletto, in questo luogo proprio, in questo luogo qui. Qui durante i bombardamenti dell'agosto, qui sono nati 15 bambini in questo posto qui. Lì c'è l'elenco dei bambini, delle donne che assistevano, facevano le matrici, c'è il dottor Lazzarini. È un altro luogo importante qui sul territorio. Noi abbiamo avuto anche una rappresaglia feroce, tremenda, i 13 martiri da San Pera Ponti. Abbiamo avuto l'uccisione della Tosca Fiesoli. Nei primi anni del fascismo li abbiamo avuto nel 1922 qui in piazza Fradistoro, quando i fascisti, le Amici Neri, ritornavano dalla Val di Bisenza dopo aver bruciato le cooperative e chiaramente le case del popolo, passando in mezzo al paese spararono sulla folla che si radunava sulla piazza e fecero 3 morti. Per non parlare degli oppositori, Dino Manetti venne ucciso durante la notte da 3-4 fascisti che lo aspettarono nell'orario del buio da Vigliacchi. Adelindo Bacci, un assessore della prima giunta degli anni 20, un socialista, venne ucciso dalle bastonate. E tanti altri poi furono costretti ad andare via perché chiaramente il fascismo mirava a quelli che erano gli ideali del socialismo e minava tutti quelli che erano i rappresentanti più illustri, proprio a far capire che nulla deve essere concesso a chi non la pensa come loro, no? E quindi sì, siamo circondati da foto e anche da momenti di manifestazione, diciamo, a cui ha partecipato l'AMPI di Campi Bisenzio, tutto un susseguirsi nel corso del tempo di iniziative sul territorio. Ecco. L'AMPI è stata nel 2001 a Genova, c'era l'unica AMPI delle 1000 associazioni che facevano parte del Genova Social Forum. Noi in quelle drammatiche giornate eravamo a Genova con il nostro piccolo contributo, ma avevamo aderito alla piattaforma del Genova Social Forum. Sì, perché un altro mondo è possibile, perché non può essere in mano alla speculazione dei pochi. E queste battaglie le riportiamo sul territorio, quindi la nostra presenza all'interno del comitato contro le nocività, quindi contro l'inceneritore o termovalorizzatore, come balla lo vogliono chiamare, cioè chiaramente una proposta sul il trattamento dei rifiuti che danneggia molto la popolazione residente nel luogo e poi causa uno spreco, perché per noi il rifiuto è una risorsa. E lo stesso discorso è, siamo entrati dentro anche al comitato per il no aeroporto, perché è impossibile pensare nel 2000, nel 2017, come siamo oggi, anzi 2018, si riesca a realizzare un aeroporto di 2400 metri di pista in una zona residenziale, non esiste, è roba da barbari. Avete partecipato anche alle manifestazioni antifasciste ultimamente, ecco. Qui vicino nella nostra zona abbiamo i ragazzi del cantiere sociale Camino Cienfuego. Molte volte quando ci sono state delle manifestazioni, noi come AMPI ci ritroviamo in pieno, chiaramente quelle contro le discriminazioni, quelle contro l'evento dei neofascismi, quindi Casa Pound, Forza Nuova o Fogna Nuova, come cavolo si vogliono chiamare, ecco, questi alcuni governi, alcune istituzioni che palesemente su Faldine in questi ultimi 20 anni ci stanno manipolando, hanno permesso l'evento di queste squadracce, di questi delinquentelli super pagati. In un momento appunto di difficoltà del paese è facile discriminare l'altro, il diverso. La cosa più semplice che si può far attaccare nei territori è una cosa vergognosa. Poi sento dire che parecchie istituzioni si rivalgono oppure sono vicino all'antifascismo, dico qua l'antifascismo, ha detto di me, quale, quando te tu permetti una civilità ai fascisti, te tu mi vieni a parlare di antifascismo, tu permetti la civilità a chi discrimina, a chi fa problemi di razza? Fulvio, l'antifascismo oggi, al di là delle ricorrenze e della memoria. Ah, l'antifascismo oggi, io, per me deve essere una pratica, uno si alza la mattina e deve viverlo. Quindi cosa vuol dire oggi antifascismo? Antifascismo come ieri vuol dire stare insieme, uniti nelle difficoltà, cercare di aiutarsi. Per battere l'isolamento che ti opprime, l'isolamento della solitudine. Essere antifascisti oggi vuol dire essere contro le guerre, essere contro quelli che esportano la democrazia bombardando altri paesi. Ringraziamo Fulvio e alla prossima. Passaggio a Nord-Ovest, quello che succede nel quadrante Nord-Ovest di Firenze, raccontato da chi nei quartieri ci vive e ci lavora. Alla prossima.